Conti della Belva di Carlo Alberto Carnevale Maffè e Oscar Giannino. Buongiorno cari ascoltatori di Radio 24, in questo sabato 21 di marzo comincia la primavera e la volta buona, anche la primavera comincia quest'anno perché è un merito del governo, naturalmente non ricordatelo bene, la volta buona, quindi inizia la primavera e San Serapione, non so se anche San Serapione si debba al merito del governo, ma comunque questa puntata bella, sprarrude come sempre dei Conti della Belva comincia e quindi i compari vi salutano. Carlo Alberto Carnevale Maffè, Mario Seminerio. E invece Rato Cifarelli questa volta in un viaggio di lavoro, quindi marca vista, ma però per tenere in piedi la sua piccola impresa bisogna capirlo. Oscar Giannino anche vi saluta e vi fa subito il resumé, la sintesi delle cose su cui intervenire oggi. Ricordo tutti 800 24 00 24, numero per darci la vostra voce telefonando in diretta, 349 238 6666, invece gli sms naturalmente su Twitter, l'account è Conti della Belva. Ricordate, lo spirito della trasmissione è sempre questo: suonate la carica. Allora, andiamo ai temi di cui parleremo oggi. Naturalmente cominceremo con un punto fisso ogni settimana col nostro inarrivabile Mario Seminerio, che è il punto sui conti della crisi, per così dire. Quanto è stupendamente meravigliosa la crisi che è finita e la ripresa che si deve ai meriti del governo. Analizzeremo alcune espressioni verbali dei membri del governo e anche alcuni numeri per capire quanto è solida questa ripresa rispetto a quella invece dei nostri concorrenti. Sapete che ci sono due cifrette da guardare, quelle dell'OCSE che ha rivisto le stime di crescita italiana, e poi c'è anche un bel bollettino mensile della BCE che si rivolge al governo con alcune espressioni che vi ricorderemo. Poi un grande blocco che ha a che vedere con un tema che c'è caro, il fisco, perché la Corte Costituzionale ha bocciato come illegittimi 1000 dirigenti delle diverse agenzie tributarie dello Stato, quindi l'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia del Demanio, l'Agenzia del Territorio, sono 800 solo l'Agenzia delle Entrate. Cosa succede adesso, visto che l'apparato che ci fa prediche inenarrabili alla legalità ai cittadini è in realtà illegittimo? Ecco, ci interrogheremo su questo punto. E poi, altra questione, i 14,2 miliardi di proventi nel 2014 da cosiddetta lotta all'evasione, li analizzeremo, capiremo come mai anche questo governo, come tutti gli altri, non ne retrocede un solo euro ai cittadini onesti. E poi un'analisi di Assolombarda su quanto pagano gli iscritti ad Assolombarda in più in questi tre anni, le imprese di Assolombarda, 8,7% in più in tre anni di imposte locali. Le tasse, come è noto, stanno scendendo nel nostro meraviglioso paese, peccato che i numeri dicano il contrario. Poi un altro blocco obbligato molto lungo sulle opere pubbliche dopo la vicenda Lupi. Lupi si è dimesso, ma la domanda che ci porremo e che vi porremo sono: servono più pene e più galera? Ma prima, per prevenire, cosa facciamo? Non è vero o è vero che non si sa come smontare questo enorme colosso pubblico del legge obiettivo che ha visto realizzati solo l'8% dei suoi obiettivi con un sovraccosto del 40%, come cambiarla questa cosa? Le idee ci sono, il problema è farle, naturalmente, metterle in atto, perché altrimenti la corruzione solo con le pene naturalmente non verrà risolta, e ne verrà risolto il problema che buttiamo un mucchio di soldi dalla finestra. Quindi la domanda finale sarà anche: non è il caso di rivedere la lunga serie di opere indicate nelle leggi obiettive? Sono davvero tutte necessarie? Ma chi le ha stimato davvero i costi benefici? Fidarsi? Fino a questo momento la risposta a queste domande è no. Ecco, tutto questo ce ne occuperemo, voi dateci le vostre opinioni, ma intanto agli altri due compari chiedo: cosa vi ha fatto arrabbiare questa settimana, Carlo Alberto? A me non piacciono i processi basati pubblici, sovietici, basati sulle intercettazioni, non li sopporto proprio. Le dimissioni fatte in televisione, neanche quelle. Ti confesso che mi piacerebbe un governo, un Parlamento che tutela il suo ruolo e che invece, come dire, invece di essere messo al pubblico ludibrio perché parla di figli e di orologi e come dire, errare umano, e non dovrebbe farlo pure, se chiaro, non voglio giustificare. Io dico che un paese che come dire, fa i rimpasti di governo con le intercettazioni telefoniche e con i processi TV, scusate, ma non è il mio paese. Mario. Ma io sì, a cosa è servito abolire il Senato se poi rimane porta a porta? Questo è il problema. Ma per Costituzione non si può abolire. No, è appunto la Camera di riserva. Porta a porta è esterna alla Costituzione, quindi è intoccabile, quindi tenderà a rimanere anche quando le funzioni parlamentari saranno completamente decadute. Io rifletterei su questo. L'ultima trincea, per così dire. Esatto, ma al di là della battuta, è veramente, forse sarò un alieno, ma mi pare veramente un caso di degrado istituzionale annunciare le dimissioni in una trasmissione televisiva e il giorno dopo andare a porgere un deferente omaggio alla Camera a cui si appartiene e di cui si è stati vicepresidenti. Non posso che essere d'accordo, e inevitabilmente infatti la Camera è pure vuota a quel punto, perché tanto perché era venerdì, era giorno di grande fuga. Allora, due cose. Io, in uno stato che si sa, basa sulle intercettazioni, quando ho letto che leggere i messaggi del partner diventa furto, ho fatto un sussulto, perché è la conferma della solita storia: solo lo Stato può rubare, come è evidente. Seconda cosa, notizie come queste, che adesso succintamente richiamo, sta sul Corriere della Sera di oggi, richiamano la giustizia vera nel nostro paese, lo Stato e la giustizia. Un 87enne, Cremona, la cosa avviene a Cremona, malato di Alzheimer, che al supermercato esce omettendo di mettere alla lista delle cose da pagare una confezione di una micro salsiccia di ben 1,76 euro. Malgrado l'Alzheimer, condannato alla galera, 45 giorni di carcere, e poi, visto che ha l'Alzheimer, il giudice ci ripensa un secondo e gli appioppa una multa superiore a 11.000 euro. Ecco, questo, io vorrei fare due chiacchiere con quel giudice per capire in testa che tipo di giustizia ha. Io mi vergogno, perché vorrei andare io a dire a questo malato di Alzheimer: guarda, gli 11.000 euro, se poi te li fanno pagare, facciamo una colletta, perché non è possibile, ragazzi. 1,76 euro, ma vi ricordate la vicenda di Jean Valjean all'inizio dei Miserabili? È esattamente la stessa. Eppure qua siamo, e questa è la giustizia della Repubblica Italiana. L'Italia, l'Italia, le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò, sì! I conti della belva. Eccoci tornati in diretta alle 10:18, primi 38 secondi. Vi ricordo il numero di telefono per intervenire: 800 24 00 24, in questa prima giornata di primavera e il giorno dopo l'eclissi. Cominciamo con l'appuntamento fisso, con a che punto sta la crisi. Sto vivendo una crisi, c'è sempre ogni volta che qualcosa non va. Eccoci qua, perché in questa settimana c'è stata innanzitutto una comunicazione del governo, che francamente a me ha evocato una cosa, adesso non vi vengano i brividi, ascoltatela bene, lo so che è un accostamento di quelli pesanti, però a me ha evocato questa roba qua. Il 18 dicembre 1935, mentre l'Italia si trovava impegnata sul suolo africano e il popolo tutto si schierava, unito e compatto, attorno al suo capo per fronteggiare le necessità immediate e quelle future della produzione, il Duce inaugurava Pontinia e seminava sui suoi campi bonificati il grano. Il 19 agosto 1936 il Duce è tornato a Pontinia, ha trebbiato il grano da lui seminato, rimanendo per circa un'ora sulla trebbiatrice fra gli operai. È questo il trionfo del lavoro italiano, che non conosce ostacoli e che è ravvivato da una fede e da una volontà. Allora, voi direte, beh, esagerate. No, scusate, il tono scandito del cinegiornale Luce, secondo me, è quello con cui va letta anche la comunicazione data a Twitter dal Presidente del Consiglio. Piano Juncker, QE, flessibilità, dollaro uguale euro, sono frutto del semestre italiano alla UE. Poi 80 euro, IRAP, incentivi alle assunzioni, Jobs Act uguale la volta buona. Allora, capite bene, ma io lo faccio spiegare a Mario, che quando si avoca ai meriti del governo italiano questa lista di decisioni, condizioni internazionali, dicendo è tutto merito mio, secondo me inauguriamo Pontinia bis! Senti, e... ma quel testo lì, che questa traccia audio che abbiamo appena ascoltato, l'ha scritta per caso un avo di Maria Teresa Meli? Non lo so, però insomma... Allora, spieghiamo invece un po' di numeri alla mano. No, perché le cose ci sembrano diversamente, Mario? Ma insomma, allora, a parte i flussi logici e causali di questo tweet di Renzi, no? Voglio dire, piano Juncker, che ancora non esiste, siamo esatto. ancora nel grembo di Giove, stanno lavorando, prima o poi vedremo qualche schizzo e vediamo. Ma è un merito italiano. No, il QE, non lo so, diciamo che l'Europa stava talmente inabissandosi che alla fine, e soprattutto la Francia stava inabissandosi, non dimentichiamo mai che la Germania comunque sta tenendo per mano la Francia e l'Italia ha un beneficio collaterale, perché alla Francia viene scontato tutto e il contrario di tutto, a differenza che all'Italia, per motivi storici e di asse europeo, e questo si tende anche a sottovalutare. Poi vabbè, che dire, la parità dollaro-euro, ma come mi sembra un classico caso praticamente di febbre molto alta, probabilmente da malanni stagionali, e poi che cosa dobbiamo dire d'altro? Non lo so, posso dirti una cosa? Sì. Rivendicare l'azione di un governo, anzi di un singolo membro, una scelta di politica monetaria dopo che si sono passati questi 3 anni a difendere l'autonomia della Banca Centrale Europea è un po' contraddittorio, Mario, dico bene? Sì, ma probabilmente lui si attribuisce dei meriti e delle capacità superiori di persuasione senza che ciò rappresenti una coercizione della politica monetaria. È un grande incantatore di serpenti. No, diciamo. Ma allora, noi Draghi abbiamo Draghi, certo, sì, cari sì. ascoltatori renziani, adesso tenetevi ancora più forte, perché vi dobbiamo comunicare quello che i compari dei conti della Belva, su proposta di Mario Seminerio, hanno deliberato come nickname, soprannome, diciamo così, del presidente del consiglio. Noi abbiamo in testa di renderlo protagonista di una serie di comics, di strisce proprio, e il ruolo che gli verrà affidato è quello di un capitano. Capitan Ganassa perché voi capite che oramai siamo a rivendicazioni di onori al merito di questa svolta buona, chiamatela come la volete, che mettono insieme mele, pere, elefanti, giaguari, di tutto, ed è una cosa, secondo me, questo cambio tono, perché al di là dell'ironia, però non è una cosa seria, perché ci dipinge in una maniera veramente da operetta, se posso dire le cose. Invece, se andiamo a vedere un po' di numeri concreti, nei numeri concreti l'OCSE, che ritocca verso l'alzo le stime di crescita del 2015, ci conferma i penultimi nell'Unione Europea, perché certo c'è questa grande correzione verso l'alto, però più 0,6, Mario, non è che... Beh, come si è detto più e più volte, noi cresciamo sempre meno della media. Quando riusciremo a crescere in linea con la media o anche a fare meglio, io personalmente costruirò una statua equestre a Matteo Renzi. Fino ad allora è il classico caso di relitto che galleggia con l'alta marea. Qui c'è veramente poco da aggiungere. Ecco, e tranne il fatto che non equivocate ascoltandoci, non siamo così stupidi da dimenticare che se da 20 anni va avanti il trend di andare peggio degli altri quando le cose vanno bene e di perdere più degli altri quando vanno male, non è colpa dell'attuale governo. Esatto. Proprio per questo, per senso di responsabilità, bisogna usare una comunicazione pubblica commisurata al fatto che le colpe sono stratificate di destra e di sinistra, però non bisogna cadere nella trappola dell'autoincensamento, perché ci si rende ridicoli. Guardate, leggete, scaricate il bollettino della BCE che è uscito questa settimana, che contiene delle frasi molto precise sul fatto che anche questo governo resta inadempiente, anzi lontano, proprio questa è l'espressione che viene usata, da tutto quello che ci si aspetta da lui, da quello che dovrebbe fare per rientrare sul debito. E qui non stiamo parlando di massacri, di manovre fiscali eccetera eccetera, cose elementari del tipo i risparmi sugli oneri del debito pubblico dovuti alla BCE, a Mario Draghi eccetera, invece di usarli per alimentare altra spesa pubblica, utilizzateli per il rientro del debito, e così via. Tutte cose, caro Alberto, che invece questo governo non fa. Sì, ma non solo non fa però. Torno a sottolineare l'incongruenza logica, istituzionale, dell'avvocare al governo meriti impossibili come quella della politica monetaria, ma soprattutto meriti diseducativi come l'idea che la ripresa dopo la crisi sia un atto di volontà governativa, quando in realtà in una società complessa come quella italiana le decisioni su crescere o non crescere le prendono tantissimi attori, e c'è invece da sottolineare come non possiamo aspettarci dal governo nessun miracolo, nonostante i miracoli pretesi, perché il nostro PIL potenziale è fortemente influenzato da un sistema bancario in ginocchio, da un'allocazione dei risparmi inefficiente, da famiglie impaurite, da un paese invecchiato che tiene gran parte dei propri soldi in mano alle generazioni più vecchie, posso dire, quindi ha una terribile paura del futuro e non lo comprende. Quindi, allora, giusto per delegittimare il governo, anche solo da prendersi gli onori futuri, perché un po' di ripresa ci sarà e lo sappiamo tutti, no? 0,6, 0,8, forse arriviamo a vedere l'1 l'anno prossimo, comunque insufficiente a recuperare 10 anni di tempo perduto, ci vorranno 20 anni prima di tornare a prima della crisi, 15-20 anni, lo sappiamo. Ecco, il tema vero è dire agli italiani che qualsiasi sia la pretesa del governo di accollarsi crisi o ripresa, la verità è che c'è da riaprire un capitolo sulle responsabilità delle imprese, di chi lavora, delle famiglie, dei padri e dei figli. Allora, io rispondo a molti ascoltatori che ci hanno mandato sms chiedendo il nome e cognome del giudice che starei coprendo, quello responsabile della sentenza sull'87enne di Cremona per 11.000 erotti euro per una salsiccia con cui è uscito una micro confezione di salsicce da 1,46 euro. Il nome nell'articolo del Corriere della Sera che vi ho citato, lo trovate a pagina 9 dell'inserto Lombardia del Corriere della Sera, non c'è, quindi io non sto coprendo niente, lo vorrei sapere anch'io. Detto questo, vi invito tutti, una volta che sapremo il nome almeno di questo anziano, a dargli una mano, ma quasi come solidarietà umana. Rapidissimo giro su un'altra cosa di questa mattina che farà avvampare i giornali in questo fine settimana e all'inizio della settimana prossima, perché riguarda, a proposito di conti della belva, conti privati del dare e dell'avere, cioè degli investimenti che vengono in Italia, e riguarda un grande brand storico della storia delle imprese dell'industria italiana, Pirelli, perché in questo fine settimana sono attese delle decisioni in vista di una presa di controllo da parte di una grande azienda cinese, la China Chemical Corporation, e è un'operazione da oltre 8 miliardi, 7 dovrebbero servire a un'OPA sul mercato. E leggerete moltissimo delle voci molto critiche perché l'Italia smonta ulteriori pezzi e si consegna agli stranieri. Rapidissimo sintesi tra noi. Io penso questo: Tronchetti Provera trasparentemente lavorava da anni a una questione di soluzione di una leva finanziaria troppo elevata rispetto a basso capitale proprio nella catena di controllo e di fronte a un indebitamento che aveva ottimizzato, nel mentre Pirelli andava sempre meglio, perché la scelta di stare nel settore premium dei pneumatici è risultata vittoriosa. Ha cercato più soluzioni, il mercato italiano non ha capitale da investire nelle grandi industrie per l'ennesima volta, le ha cercate all'estero, prima russe, oggi cinesi. Se tutela i cervelli e la tecnologia e la guida per un po' di anni almeno in Italia, io dico molto bene attirare capitali stranieri se in Italia non ce ne sono per scommesso industriale. Carlo Alberto, che dici? Completamente d'accordo, la scelta del segmento premium è condivisibile, ha pagato, ma è una scelta che ti porta a continuare a investire. Pirelli non aveva le risorse, nonostante un miglioramento netto dei conti degli ultimi anni, per fare un salto di qualità. Ci aspettano generazioni di automobili completamente diverse nei prossimi anni, c'è da ripensare proprio il sistema di rotolamento di questo bellissimo oggetto meccanico sulla terra. Non dimentichiamo anche le gomme dei motociclisti, per favore, è importante. Noi affidiamo le nostre auguste chiappe a due francobolli che ci tengono attaccati al terreno a velocità che non posso ripetere per evitare l'arresto immediato, ma sostanzialmente Pirelli ha bisogno di capitali. Le teste italiane, e non sono solo italiane, Pirelli è una bella azienda, io la chiamo meta nazionale, c'ha test in Brasile, test in Germania, la Cina in Pirelli è sempre stata al centro di attenzioni, personalmente preferisco i capitali cinesi ad altri, come dire, più medio orientali o di altra natura. Io posso dire, sono contento, Pirelli ha cercato i soldi in Italia, ricordiamolo, ecco, li ha cercati, probabilmente li ha trovati come sempre troppo pochi, troppo dubbiosi, come sempre col payoff sulla governance non facilissimo, no? Tutto sommato io trovo che questo sia un modo per garantire che Pirelli abbia almeno un decennio, un ventennio di capitali assicurati per fare bene. Siamo in minoranza assoluta. Mario, che dici? Ma in sintesi sono d'accordo, soprattutto sul fatto che Pirelli in questi anni ha fatto industria, esatto, oltre che finanza, a differenza di molti altri gruppi italiani degli ultimi 20 anni nelle loro varie fasi storiche. E non mi scandalizza l'ingresso di capitali esteri, ma questo penso, allora, che si sappia di me. Noi ci torneremo nei prossimi giorni, ma vedrete che leggerete altre cose, perché conosco un pochino il mainstream dell'informazione che parte subito in groppa dicendo stanno svendendo l'Italia, e ti credo, ci fossero i signori delle banche, i fondi di investimento, investizioni. Vedi che torniamo al tema dell'allocazione, esatto, del nostro capitale. Esatto. Italia abbiamo 8.500 miliardi di capitale messi nei posti sbagliati. Qua, e poi ci lamentiamo che arrivano gli altri, ma i primi a non credere nei nostri gioielli, che Pirelli sia un gioiello, scusate, ce lo riconosce tutto il mondo, equipaggia di primo equipaggiamento le migliori macchine al mondo, sponsorizza la Formula 1, ha straordinaria ricerca scientifica, niente, non ci crediamo, e quindi io non so cosa dire. Bravo, bravo, bravo, ci sentiamo tra un minuto e torniamo e iniziamo a parlare di fisco. Della belva. Eccoci qui, tornati in diretta ai 10.30, sei primi dagli studi Radio 24 di Milano, Conti della Belva, i compari Carlo Alberto, Mario e Oscar, e adesso ci aspettano tre bei blocchetti per 45 minuti, telefonate sul fisco, perché parleremo di una serie di notizie di questa settimana, la prima delle quali è la sentenza della Corte Costituzionale che fa chiarezza su una vicenda della quale per anni ci siamo occupati solo noi piccoli topastri, roditori, che tentiamo così ogni tanto di rodere le tante contraddizioni dell'apparato tributario pubblico dello Stato, in un paese in cui naturalmente si dibatte solo dei torti dei contribuenti, lo Stato ha sempre ragione, in realtà la macchina pubblica che fa prediche di legalità è commista da delle malattie e dalle gravissimi vizi di illegittimità di cui per anni ce ne siamo occupati in pochissimi. La Corte Costituzionale riconosce con la sua sentenza che ben mille dirigenti delle diverse agenzie pubbliche tributarie, quindi l'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia del Territorio, l'Agenzia del Demanio, sono illegittimi perché esercitano queste funzioni da anni senza averne titolo, perché non sono stati assunti per concorso e quindi sono illegittimi. Ecco, partiamo da questa prima notizia, una notizia della quale non è scaturito alcuna dichiarazione di scusa ai contribuenti da parte dei vertici attuali. E per correttezza va detto che l'attuale vertice dell'Agenzia delle Entrate, cioè la dottoressa Orlandi, è incolpevole di questo. È una situazione che matura nei lunghi anni di befera, prima confermando i vecchi dirigenti delle imposte quando le agenzie nascono e poi mettendo dirigenti nuovi ma senza concorso. Tuttavia non una parola di scuse. Mentre le aziende chiudono per eccesso di fisco, lo Stato l'unica cosa che fa di fronte a questa sentenza è invocare la continuità operativa. Capite? La continuità operativa non vale per le imprese ma vale solo per lo Stato, e naturalmente quindi invoca adesso una bella ope legis per sanare tutto senza neanche una parola di scusa. Vi leggo come secondo dato, per iniziare poi a presentarvi i nostri ospiti e a interrogarci, l'aggiornamento dell'andamento della pressione del fisco sulle imprese, coloro alle quali poi si danno tutte le prediche perché non pagano abbastanza e gli stiamo naturalmente alzando le pene, il falso in bilancio eccetera eccetera, questi italiani evasori, mio Dio, galera. Allora, tra i 5.800 iscritti alla Lombarda, aggiornamento del rapporto annuale sulle imposte, le imposte sono salite dell'8,7% per la sola componente locale, i mutari eccetera eccetera, in 3 anni, e voglio ricordare la classificazione di quanto si paga davvero a Milano, la capitale industriale morale dell'Italia, sul risultato ante imposte, cioè sul reddito commerciale lordo, per così dire, che è cosa diversa dal risultato ante imposte, perdonatemi, però sul risultato ante imposte le imprese di Assolombarda pagano più del 60%, il 16,7% di loro, più dell'80%, il 20,1% di loro, oltre il 100%, grazie al regime delle anticipazioni, il 9,2% di loro. Se fate la somma, otterrete 9% più 20% più 16%, che il 45% delle 5.800 imprese della territoriale più forte di Confindustria sta tra il 60 e oltre il 100%. l'aumento dei tasse allo Stato ladro! Ecco, questi sono i numeri, numeri, capito, non opinioni, che danno l'idea di qual è il divario tra uno Stato illegittimo nelle sue funzioni dirigenziali che ha la pretesa tributaria e la concreta pretesa tributaria, che come vedete non va giudicata sulle aliquote medie e mediane o quelle legali dell'IRAS, perché naturalmente ognuno paga le tasse a seconda dell'ultima riga del conto del bilancio come persona giuridica. Questo è il dato reale, e quello di Milano mi sentirei di estenderlo in tutte le aree ad alta densità di manodopera e manifatturiere, perché contano queste componenti su quanto poi i tasse reali si pagano. Ecco, presentiamo intanto i nostri ospiti, poi tireremo fuori anche in ballo il dato degli incassi record 2014, 14,2 miliardi della lotta all'evasione fiscale e altre cose, ma intanto partiamo da questo blocco, l'illegittimità dei dirigenti. Per parlarne sono con noi il professor Raffaello Lupi, che insegna diritto tributario alla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Roma. Buongiorno e grazie professore. Salve, buongiorno. E il professor Dario Stevanato, che insegna diritto tributario all'Università di Trieste. Buongiorno e grazie professore. Buongiorno, buongiorno. Adesso, prima come è giusto, il tono equilibrato e accademico che vi è proprio rispetto a quello dello scombinato giornalista antitasse che sono io, abbia come è giusto il più dello spazio, io vi dico che il più degli ascoltatori, quando sentano delle legittimità senza scuse da parte dello Stato dei dirigenti tributari, avrebbero questa reazione. Però noi una bella, sana, legale protesta fiscale con un po' di battaglioni dietro, però non farebbe male, ma non la vedremo mai. Allora, professor Lupi, ci dica naturalmente tutti i nostri errori nell'essere così arrabbiati di fronte a questa sentenza della Corte senza scuse. Ma la sentenza della Corte è una questione. Da chi era stata promossa la causa? Era stata promossa da un'associazione sindacale di funzionari direttivi che protestava contro l'eccessiva discrezionalità nella nomina degli incarichi, perché l'Agenzia delle Entrate, che si vuole travestire da azienda, cioè che è nata dicendo noi siamo un'azienda, come se vendessero cioccolatini e detersivi, vuole fare quello che fanno tutte le aziende, dove se si copre la posizione di, se c'è da coprire la posizione di direttore marketing, non è che fanno un concorso, c'è un meccanismo di cooptazione, decide l'amministratore delegato. E l'Agenzia delle Entrate ha semplicemente cercato di trasporre male, per carità, la sentenza della Corte Costituzionale è corretta, però quello che fanno le aziende nel mondo pubblico, cioè il dirigente di grado superiore dice chi sono i più bravi, ti do un incarico dirigenziale. Ovviamente i sindacati della pubblica amministrazione sono insorti, l'avrei fatto pure io, perché dice ma io non ho procedure trasparenti per dire in che modo tu direttore della Lombardia hai scelto coloro a cui dare gli incarichi dirigenziali, cioè l'Agenzia delle Entrate ha meccanicamente trasferito, traghettato armi e bagagli, le modalità operative delle aziende private in un mondo pubblico dove c'erano delle regole secondo me sbagliate, ma sono regole generali di tutta la pubblica amministrazione, dove ci sono due passaggi, cioè tu prima fai il concorso da laureato, dopodiché per diventare dirigente devi fare un altro concorso, cosa che secondo me è una stupidaggine, ma di tipo generale, tant'è vero che la Guardia di Finanza, la magistratura, la diplomazia non ce l'hanno, cioè tu fai il tuo concorso in magistratura, diventi uditore giudiziario eccetera eccetera, poi non hai seconde barriere. Capito? Entri in Guardia di Finanza come ufficiale, diventi generale senza avere una. Ci sono delle procedure interne, commissioni di avanzamento che ormai sono andate a regime, funziona benissimo. Quindi adesso non è che erano illegittimi perché erano incapaci, raccomandati, mafiosi o roba del genere, erano stati selezionati intuitus persone, professore, come tutte le nostre aziende di Assolombarda fanno. Professore, non stiamo parlando delle aziende di Assolombarda, lo so, stiamo parlando dell'apparato tributario dello Stato. Non faccia il sostanzialista, ecco. Perché la legittimità è questione di forma, esatto. La forma è violata perché c'è una sentenza della Corte. Ma non è che la legittimità è stata violata, mette in crisi la credibilità della struttura. Fermo, Raffaello, lo sai benissimo che la norma prevedeva temporaneità, quindi riconosceva la cattiva coscienza dicendo lo sappiamo di non poterlo fare, quindi lo facciamo per adesso. Come sai bene, in Italia il per adesso è per sempre. La temporaneità è stata impugnata e secondo me correttamente. Quindi che la sentenza ci stia, vabbè, e il problema è come ci organizziamo adesso. Esatto. Io non è che ce l'ho con la sentenza, ce l'ho con la legge del 2001, che è quella, non so come fa, ma evidentemente i beni culturali, l'istruzione, il ministero dell'università sono meno esposti a questa necessità di dirigere, perché è lo stesso problema, loro riescono a fare i concorsi perché sono amministrazioni più piccole, hanno meno necessità, sono più tranquille. Professor Lupi, lei si sente di escludere che il motivo per il quale non è stato fatto sia stata la pratica e la difesa della pratica della discrezionalità nella befera? No, questo è nato dai tempi, prima c'erano le reggenze, che era più o meno la stessa cosa, cioè il problema va avanti dal 92. Come no? Va avanti dalla nascita. Era già dai tempi di Massimo Romano, già dai tempi di Raffaele, l'altro dirigente che c'è stato prima, è una cosa strutturale, che si vogliono tenere la possibilità di cambiare il dirigente, e naturalmente c'è un problema di non voler dare autonomia ai dirigenti, perché io con questi incarichi biennali ti tengo per il collo. Questo va benissimo, cioè che il sistema andasse male, fuori discussione. È fuori discussione. Allora, però partiamo dal fatto che è fuori discussione. Adesso ricordiamo che nel frattempo che arrivava, era in cozione la sentenza, alcuni TAR italiani hanno iniziato a considerare illegittimi, su istanza dei movimenti dei consumatori, alcuni atti emanati da quei dirigenti. C'è una sentenza della Corte che su questo dà copertura. Vedremo come, perché a questo punto la domanda diventa per i contribuenti cosa succede, mentre associazioni dei consumatori ieri hanno annunciato impugnative di massa adesso contro gli atti firmati da quei dirigenti. Torniamo tra un minuto a Strade su questo interrogativo che riguarda noi tutti come contribuenti. Della belva. Eccoci tornati in diretta a 10:49 primi 14 secondi in questo 21 di marzo. San Serapione, stiamo parlando in questa serie di blocchetti della nostra trasmissione dedicati al fisco, di questa sentenza della Corte Costituzionale sull'illegittimità di centinaia e centinaia di dirigenti dell'apparato tributario dello Stato nelle agenzie. Il professor Raffaello Lupi, che è con noi insieme al professor Dario Stefanato, ma il professor Lupi ha detto i motivi per cui strutturalmente, storicamente si è creato questo problema. Adesso la domanda diventa: quali sono le conseguenze sugli atti fatti, emanati, firmati, sottoscritti da questi dirigenti? Alcuni TAR italiani li consideravano illegittimi e annunciata impugnativa di massa da parte dei movimenti dei consumatori per farli decadere, ma la sentenza della Corte su questo dice delle cose. Che cosa dice la sentenza della Corte su questo, professor Stefanato? La sentenza ha un passaggio sul tema delle deleghe di funzioni, che però secondo me, se si va bene a leggere, riguarda tanto il tema del passato, cioè di qual è la sorte degli atti emessi, e poi forse è il caso di dire due parole su questo, ma su cosa succede per il futuro e soprattutto serve a giustificare la sentenza stessa. Cioè la Corte dice: in fondo non c'era bisogno di queste continue proroghe degli incarichi dirigenziali per salvaguardare l'operatività delle agenzie, bastava operare attraverso l'istituto delle deleghe di funzioni. Quindi mi sembra che quel passaggio, leggendolo bene, serva, diciamo, è intrinseco alla motivazione della sentenza, quindi non è che come a me era sembrato in un primo momento servisse a dare copertura agli atti già emessi, su cui però quindi c'è un problema aperto. C'è un problema, però io direi che va inquadrato in questi termini, cioè escluderei in via, diciamo, abbastanza assoluta che l'annullamento delle nomine dei dirigenti travolga anche tutti gli atti emessi. Perché? Perché secondo me siamo di fronte a quello che in amministrativo si chiama vizio di carenza di potere in concreto, cioè qui esisteva un soggetto che aveva vinto un concorso che è incardinato nella pubblica amministrazione competente a emettere quegli atti, e l'illegittimità della nomina determina un problema di annullabilità. Che cosa significa? Che l'annullabilità va fatta valere nel ricorso con un apposito motivo, sì, nei termini di decadenza. Quindi se parliamo di atti già emessi, che sono ricorsi già fatti, addirittura sentenze già pronunciate o addirittura passate in giudicato, tutta questa roba qui resta salva, cioè non è pregiudicata dall'illegittimità della nomina del dirigente. L'unico problema che io vedo è per gli atti che sono stati emessi a fine del 2014 e che fossero ancora impugnabili, perché chi avrà fatto istanze di adesione su quegli atti lì è ancora nei termini fino a fine maggio per impugnare l'impugnabilità. E lì vedo un problema, perché secondo me oggi col venir meno della funzione dirigenziale, con l'annullamento della nomina che segue la sentenza, quegli atti risultano emessi in carenza di potere, quindi diciamo un vizio assimilabile all'incompetenza che andrà rilevato nei ricorsi, evidentemente. Immagino che chi allora, ha un atto da impugnare lo farà. Allora, su questo punto c'è un nostro ascoltatore, Vincenzo, che si chiama la provincia di Roma, che ha una domanda da fare ai nostri due ospiti, proprio sulla sentenza rispetto agli atti impugnabili. Vincenzo, prego. Sì, dunque volevo sostenere che una sentenza della Corte Costituzionale annulla praticamente l'atto che esiste, ma con decorrenza da allora e non da ora, nel senso che la decorrenza giuridica dovrebbe essere quella da quando l'atto è stato pronunciato, nel senso che in pratica non dovrebbe esistere più l'atto, come succede nelle leggi. Se una legge viene dichiarata incostituzionale, dire che non esiste più, è giusto o no quello che dico io? Allora, mi sembra di aver letto da qualche parte che fa salvi tutti gli atti. Vincenzo, tesi che avete letto in questi giorni è tutto salvo, non c'è problema. Adesso stiamo tentando di capire se c'è un problema di ordine generale, A, B, se c'è un problema riguardo almeno però a quegli atti di cui sono ancora aperti i termini di impugnabilità. Qual è la tesi della risposta del professor Lupi al nostro ascoltatore? Legittimità è stata dichiarata rispetto agli altri colleghi di quelli che erano stati nominati dirigenti, cioè siccome c'era una discriminazione, c'era troppa discrezionalità dei dirigenti regionali che nominavano, allora perché Tizio sì e Caio no? Ma non è che Tizio era carente di qualità professionali, questa gente che il concorso l'ha fatto per entrare, noi purtroppo abbiamo due livelli di concorso, uno per entrare e quindi diventare funzionari dell'Agenzia delle Entrate, poi un altro per diventare dirigente, c'è il doppio filtro. Infatti noi non è che abbiamo violato la Costituzione, l'impiego era avvenuto per concorso, poi la legge del 2001 dice no, ma noi abbiamo anche due livelli di concorso. Allora non è che era a favore dei contribuenti, siccome c'è stata una illegittimità rispetto ai colleghi dei nominati, allora questo deve decadere, ma era una lite sindacale interna, era un problema sindacale interno all'amministrazione. D'accordo, ma sugli atti, adesso la sua interpretazione, avendo letto la sentenza della Corte, è tutti sanati? C'è un problema per quelli impugnabili? Qual è la sua tesi? Qual è la sua tesi sugli atti emanati? Gli atti sono validissimi, anche se si impugnano adesso. Infatti c'è giurisprudenza della Cassazione che dice, cioè non è uno che è entrato all'ufficio finanziario oppure uno di gruppo B che doveva fare l'usciere che ha firmato l'avviso di accertamento. E allora che cosa serve il secondo concorso, Raffaello? Scusami, la garanzia è formale, sulla sostanza nessuno discute se sono bravi o meno, ma se sono legittimati a firmare un atto, tutto qua. Legittimati è una parola grossa. È una parola grossa, però la norma c'era, professore. Allora, sospendiamo qua, torniamo dopo GR, riprendendo esattamente da dove ci siamo interrotti. Della belva. Eccoci qua, tornati in diretta alle 11:09:07. Stiamo parlando dei conti della belva, degli effetti della sentenza della Corte Costituzionale sulle legittimità dei 1000 dipendenti delle agenzie tributarie dello Stato. I nostri due ospiti, il professor Raffaello Lupo e Dario Stevanato, hanno opinioni leggermente diverse su un punto decisivo, cioè quello cosa succede adesso sugli atti. Caro Alberto, c'è un ascoltatore che ci ha fatto una segnalazione preziosa. Beh, molto più che un ascoltatore è l'avvocato Giorgio Infranca, che ci ricorda, citando sentenza della Cassazione, che è dovere preciso dell'Agenzia delle Entrate dimostrare la titolarità del potere di chi ha firmato l'atto amministrativo, e quindi in assenza di questa dimostrazione esplicita l'effetto è la nullità dell'avviso di accertamento. E ringraziamo Giorgio Infranca per questa nota, e che io giro a Dario Stevanato e a Raffaello Lupi, perché il tema vero non è il dover essere futuro. Sappiamo che c'è da mettere mano al modello organizzativo dell'Agenzia delle Entrate. Il problema qui è dire agli ascoltatori cosa succede dei loro ricorsi, dei loro accertamenti firmati da funzionari che non avevano il potere formale di farlo. Stevanato. Sì, beh, dunque, è evidente che qui c'è un problema di contemperamento tra il principio di conservazione degli atti, di continuità dell'azione, con quello di legalità dell'azione amministrativa, e per cui per questo le leggi prevedono tutta una serie di tipologie di vizi a seconda della loro gravità, graduandoli in relazione alle conseguenze. Però sottolineerei un punto che mi sembra importante. Tutte le volte in cui le leggi tributarie parlano di nullità, in realtà intendono riferirsi a ipotesi di annullabilità. Questo, diciamo, è un orientamento consolidato, tant'è che anche poi non è chiarissimo se si applichino agli atti tributari esattamente le stesse regole che si applicano agli atti amministrativi e, anzi, alla, legge, e alla legge sul procedimento. In termini di sentenza sembrerebbe di no, perché lo Stato si autotutela, per così dire. Certo, comunque sia, tornerei a dire quello che dicevo prima, cioè io vedo un problema, perché quello che forse dice Raffaello si riferisce, non so se ha in mente ad esempio la teoria del funzionario di fatto, no? Per cui la giurisprudenza dice che comunque gli atti emessi sono validi, però tutta quella giurisprudenza ha per obiettivo la tutela dell'affidamento del privato e si riferisce sempre a atti con effetti favorevoli sul privato, cioè il privato non può essere leso nelle sue aspettative legittime dal fatto che venga travolta la nomina di un funzionario, quando da quella nomina erano derivati atti che avevano espanso la posizione del privato. Qui invece parliamo di atti sfavorevoli, per cui secondo me rimane il problema di un vizio che deriva dagli atti emessi dal fatto che la nomina sia stata oggi annullata. E però, quindi ripeto, c'è lo spazio per l'impugnabilità. Però, ecco, ripeto, questo non significa dire che sono atti radicalmente nulli, che il passato viene travolto. L'unico problema temporale è per gli atti emessi e ancora impugnabili oggi. Lupi. Sono delle illegittimità dirette. Allora, lo so che noi siamo la fossa del diritto, perché noi facciamo in Italia questa vicenda ci spiega perché le istituzioni in Italia non funzionano, un sintomo gravissimo delle disfunzioni, perché le aziende che studiate voi sono semplici, sono posti dove si vende detersivo, è tutto molto regolato dal buon senso. Qui è un macello, perché ci sono, ma non è che potete dire illegittimo, ci sono delle illegittimità dirette al buon andamento della struttura e delle illegittimità dirette all'interlocutore della struttura, cioè al contribuente. Cioè, se ti portano via di soppiatto dei documenti senza autorità, quella è un'illegittimità diretta alla tutela del contribuente, per cui giustamente se la eccepisci provoca la nullità, l'inutilizzabilità della prova, perché era diretta all'esterno. La nomina dei dirigenti in questo caso era diretta al buon andamento, è stata considerata nulla perché violava il buon andamento interno dell'organizzazione Agenzia delle Entrate, per cui non è automatico che abbia dei riflessi, non solo non è automatico, ma i requisiti. Chiariamo, non è automatico, ok, e neanche Stevanato. No, no, aspetta, professore, un secondo, perché c'era per i contribuenti. L'ha già detto che è una tutela ai confronti dei colleghi. No, il punto è, il professor Stevanato dice, almeno per quelli per cui ci sono i termini dell'impugnabilità amministrativa, pur ricordando che non è una nullità automatica, però c'è l'annullabilità, per quelli il ricorso c'è, questa è la tesi di Stevanato, senza ripeterci la tesi per cui, che ci ha già spiegato due volte. È d'accordo sul fatto che quindi a questo punto i ricorsi si possono fare e l'annullabilità resta, sia pur da dimostrare, oppure no? No, non sono d'accordo con quello che neanche che dice Giorgio Infranca, perché Giorgio Infranca parla di Cassazione in genere, che dice giustamente mi devi dimostrare che non l'ha firmato un fattorino, cioè mi devi dimostrare che all'interno dell'ufficio c'era un procedimento di delega astrattamente legittimo e astrattamente legittimo all'esterno, capito? Cioè che poi dentro... Ci sono due livelli di illegittimità. Non ripeta perché non c'è tempo. Non ripeta. Io volevo solo rappresentare concretamente ai contribuenti in ascolto che anche in presenza della sentenza della Corte Costituzionale, come vedete, i termini per far valere eventuali vostri diritti sull'annullabilità degli atti, almeno per i quali sono ancora aperti i termini dell'impugnabilità amministrativa, in dottrina, perché qui abbiamo due esponenti della dottrina, hanno letture completamente diverse. Allora, un paese in cui sono chiari solo i poteri che lo Stato può esercitare e mai i nostri diritti, a me sembra un paese storto, malfatto, inaccettabile. Questo è il motivo, per concludere, perché purtroppo dobbiamo risospendere, ci sentiamo tra un minuto, per il quale tutti i governi, di destra e di sinistra, ogni anno dicono che hanno raggiunto il record di nuove risorse reperite nella lotta all'evasione, 14,2 miliardi, la dottoressa Orlandi li ha appena vantati tre giorni fa, il capo dell'Agenzia delle Entrate, di cui poco meno della metà vengono in realtà dagli accertamenti, perché il resto sono incassi che non hanno niente a che vedere con la lotta all'evasione, tanto per saper leggere i numeri e non farsi prendere per i fondelli, e dopodiché... Anche questo governo, come tutti quelli di destra e di sinistra, se li tiene in tasca per coprire spesa, perché il famoso fondo istituito per legge per restituire dai contribuenti è una presa per il culo, di fronte alla quale veramente bisognerebbe fare i battaglioni a insorgere. Invece neanche la sentenza della Corte è in grado di dirvi cosa potete ritenere impugnabile. Facciamo così, sudditi a vita, schiavi di questi signori che hanno questa meraviglia di raccontarci che poi il pubblico è molto più complicato del privato. Grazie ai nostri ospiti e tra un minuto torniamo a parlare di opere pubbliche, va! Fratelli d'Italia, l'Italia l'è mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Eccoci qua tornati in diretta, vi salutano i compari dei conti della Belva. Carlo Alberto, Mario e Oscar Giannino, che si è scaldato un po' troppo, come sempre gli capita su certi argomenti, scusatemi se ho alzato la voce, però c'è poco da fare, insomma. No, purtroppo te la fanno alzare, dai, la sentenza della Robin Tax di 10 giorni fa, la stessa storia, cioè il principio ha dato ad ad, ha avuto, e qui siamo di fronte alla stessa cosa, speriamo di no, speriamo che ci sia un giudice, se non proprio a Berlino, almeno a Roma, insomma. Comunque già i TAR si erano pronunciati, vedremo, la mia opinione è che bisogna provare con l'impugnabilità, poi sapendo che naturalmente lo Stato si autotutelerà, perché in materia fiscale questo è il principio. Però da aziendalista posso rispondere a Raffaello Lupi dicendo che no, perché sennò capisci, no, gestire l'impianto pubblico è roba complicata, non come noi che ci occupiamo, che ne so, di aziende che vendono dentifrici o ragazzi, provate voi a vendere la pasta per le dentiere, se ci riuscite, non è mica facile, ragazzi, no, come farsi un mazzo allora, così lo Stato intanto è capace di spendere i soldi, ne parliamo da ora poi fino alla fine, come si vede nelle opere pubbliche, quindi non direi che è proprio un bel esempio di... Allora ricordo a tutti quel che sapete, Messo Lupi è stato travolto sì, ministro Lupi, ministro no, Lupi cioè, questo il ministro è il nostro uomo simpaticissimo, bravissimo. Il ministro, l'altro Lupi, l'ex ministro Lupi è stato travolto, io pensavo si dovesse dimettere, io ho sempre pensato che le dimissioni sono un'arte complicata, bisogna dimettersi subito ammettendo l'errore e argomentando, quando ci si fa travolgere si resta senza argomenti due volte in torto, questa è la mia opinione, non do lezioni a nessuno, però intanto così è. Il vero grande problema è quello delle opere pubbliche italiane, la ripetitività delle indagini su tutte le opere pubbliche dimostra che l'enorme mole di risorse, questo enorme edificio costruito attraverso deroghe che è la legge obiettivo, è un enorme groviera che ospita roditori pubblici e privati in connivenza, e così oramai dopo anni dobbiamo fare il bilancio di questa roba, dei 287 miliardi della legge obiettivo di cantieri promessi, realizzato all'8%, con un sovraccosto del 40% negli anni, che non ha eguali in tutti gli altri paesi avanzati. La Norvegia questa settimana ha annunciato di fare un canale sottomarino con 15 metri di fondo per far passare grandi navi sotto le montagne a un costo di 130 milioni di euro in 2 chilometri. Noi con quei 130 milioni di euro non riusciremo a stendere i binari della TAV, altro che fare un canale sottomarino dell'altezza di 40 metri. Questo dà l'idea, no? Una cifra che dà l'idea. Allora, di fronte a questo tentiamo di analizzare un po' di problemi su questa storia delle grandi opere con ospiti diversi. Cominciamo con un ospite al quale va riconosciuto, è un magistrato, è procuratore aggiunto a Venezia, e in questi giorni è tornato su un argomento inevitabile, perché a quel punto si dice le pene non bastano, bisogna renderle più dure, bisogna spaventare davvero i corrotti dirigenti pubblici e i conniventi privati, quindi la risposta è quella penale. Dall'altra parte, siamo sicuri che questa è la risposta? Non serve un disboscamento delle norme speciali, eccezionali, delle opere pubbliche, una massiccia semplificazione e delegificazione? Il testo unico degli appalti ha avuto 54 interventi legislativi in 15 anni per un totale di 622 modifiche su punti di fondo. Ecco, allora, di fronte a questo, Carlo Nordio, che è un magistrato, in questi giorni ci ha ricordato una tesi che spesso rimette al centro del confronto pubblico. Buongiorno e grazie a Carlo Nordio di essere con noi. Buongiorno a lei e ai ascoltatori. Come mai lei, abbastanza solitario, comunque in buona compagnia, ma non sembra maggioritario come magistrato, dice guardate che l'indurimento penale non ci porta fuori dal groviglio delle grandi opere, della corruzione, degli scandali pubblici? Beh, quanto al fatto che io sia abbastanza, diciamo così, isolato tra i pubblici ministeri, si può spiegare, diciamo così, citando Senofane, il quale diceva che se un triangolo potesse pensare vedrebbe Dio a forma di triangolo, cioè ognuno vede i problemi secondo la lente deformata dei suoi pregiudizi, quindi chiedere a un pubblico ministero che per principio fa indagini e fa il pubblico accusatore quale possa essere il rimedio contro la corruzione significa inevitabilmente sentirsi rispondere inaspriamo le pene. Io forse sono un po' anomalo proprio per questo, perché cerco di vedere queste cose sotto un profilo, sotto una prospettiva più vasta, che non sia quella del mio semplice lavoro, che pure ha avuto, come si sa di recente, una forte, diciamo, anche connotazione investigativa per il caso Mose, che noi abbiamo trattato e anche felicemente stiamo concludendo a Venezia. Allora, il problema è molto semplice. Da un punto di vista criminologico tutti sanno che le pene non hanno mai intimidito nessuno, perché il criminale o il potenziale criminale a tutto pensa tranne che al fatto di essere preso e punito. Questo vale per tutti i tipi di reati e vale anche per la corruzione. Qui la interrompo perché c'è un'obiezione classica del dibattito pubblico italiano e di molti ascoltatori che dicono attenzione, perché voi vi riferite all'inefficacia dell'inasprimento delle pene edittali. La verità vera è che l'esperienza italiana dimostra invece che ne teniamo pochi in carcere, cioè è inutile che gridiate con pene più alte. Noi vogliamo una giustizia più dura penale perché vediamo che ci sono pochi detenuti per colletti bianchi, per reati finanziari, per corruzione rispetto agli altri paesi. Questo è il mantra che si sente sempre ripetere. Lei come risponde? Sì, allora questa è in parte è vera e conferma quello che dico io, in parte però smentisce quella che è l'intenzione, diciamo così, del governo, per quanto sia una dimostrazione di buona volontà, di aumentare le pene edittali, perché il paradosso dell'Italia è che vengono gridate delle pene stratosferiche che ancora si vogliono aumentare, salvo poi che l'applicazione concreta in un sistema sfasciato come il nostro impedisce la punizione effettiva. Faccio un esempio molto banale: per i furti in abitazione un ladro rischia 30 anni di galera se fa 3 furti in una sera, poi il giudice gli dà 1 anno e 5 mesi e in realtà non sconta neanche un giorno perché la pena è sospesa. Questo però non significa che non è il sistema penale con l'inasprimento delle pene che va cambiato, semmai è il sistema processuale penale che va reso più efficiente, perché il nostro processo penale è diventato ormai un'arlecchinata e non funziona. Ma detto questo, che la pena sia effettiva e concreta o che la pena sia semplicemente gridata, il principio che il criminale o il potenziale criminale non ci pensi nel momento in cui decide di commettere il reato è un principio che è accettato da tutti i principi, diciamo così, da tutti gli studiosi minimi di criminologia. Poi c'è un'altra cosa da dire, che in Italia, e mi stupisco che se ne sia parlato molto poco in questi giorni, le sanzioni per questi reati negli ultimi 15 anni non sono affatto state diminuite. Si è parlato molto e impropriamente, dicendo una serie di sciocchezze, sulla depenalizzazione del falso in bilancio. Il falso in bilancio non è affatto stato depenalizzato, semplicemente è stato spacchettato in 2 ipotesi di reato, una contravvenzionale e una delittuosa, con una diminuzione peraltro minima di pene, che però non ha inciso minimamente sul fenomeno della corruzione. 20 anni fa, quando io ho trattato la prima Tangentopoli veneta, le pene del falso in bilancio erano quelle che si vogliono reintrodurre adesso, eppure quella corruzione è stata lo stesso. Ma quello che volevo dire è che in questi ultimi 15 anni, esattamente dal 2001, è entrata in vigore una legge di una severità eccezionale nei confronti delle aziende, diciamo così, che corrompono, ed è la famosa 231, la legge sulla responsabilità amministrativa degli enti, la quale prevede che se a vantaggio nell'interesse dell'azienda viene commesso uno di questi reati, come per esempio la corruzione, l'azienda può addirittura essere sospesa dall'attività, essere addirittura interdetta. Cioè, io ricordo a chi è in ascolto e tende a credere che non sia così, che l'interpretazione estensiva dei poteri affidati alla magistratura in fase di indagine preliminare, quindi senza che si vada a dibattimento, in audita altera parte, per la 231, cioè per le cose di cui stiamo parlando, che è ciò che è stato applicato all'ILVA, è stato via via esteso nel tempo, al di là di quello che c'era scritto nel codice, perché qui stiamo parlando di interruzione della continuità operativa, sequestri patrimoniali, sequestri di input e output produttivi, facoltà di sequestro patrimoniale di ciò che è nella disponibilità di soci e non dell'azienda. Cioè, avete una batteria di poteri micidiali, non ce l'ha nessun pubblico ministero al mondo. Esattamente, lei vedo con piacere che è molto informato su questa legge, che peraltro è abbastanza sconosciuta anche agli operatori di diritto e credo anche ai politici, visto che non l'hanno mai citata in questi giorni. Bene, nonostante questo arsenale sia investigativo sia repressivo di cui noi disponiamo, faccio presente che proprio nel caso che ha citato lei e in un altro addirittura a Napoli, un'impresa è stata condannata a 250 milioni, sottolineo 1 milione di euro di sanzione pecuniaria, oltre al rischio, ripeto, di essere interdetta dall'attività operativa. Bene, a fronte della presenza di questa legge particolarmente severa, si è visto che il fenomeno corruttivo non solo non è diminuito, ma addirittura è aumentato. E quindi se la risposta non è penale, per così dire, come si fa? La risposta è esattamente quella che ha dato lei in anticipo e che io mi permetto di riassumere così. Visto che è impossibile punire realmente, o comunque è difficile intimidire il potenziale corrotto, e questo più che essere punito deve essere disarmato. Cioè, a me non interessa nulla che la persona che ha rubato o si è fatta corrompere alla fine venga severamente ed esemplarmente punita. A me come cittadino e anche come magistrato interessa molto di più disarmarlo, cioè non metterlo in condizione di farsi corrompere, togliergli cioè quegli strumenti operativi attraverso i quali egli riesce facilmente a farsi corrompere. Quali sono questi strumenti operativi? Sono quelli che ha detto lei prima, ecco, questo guazzabuglio di leggi incredibilmente numeroso bizantino, farraginoso e contraddittorio, che conferisce al politico e soprattutto all'alta amministrazione, ma anche alla bassa amministrazione, una discrezionalità che sconfina nell'arbitrio, per cui la tentazione di farsi corrompere ogni giorno è tale e tanta che, ho detto una volta, dovrebbe essere un santo per non cadere in questa, per non cedervi. Quale sarebbe allora il rimedio? Che trova tra l'altro conferma nel fatto che il nostro paese è, almeno come percezione, negli strati più alti della corruzione tra i paesi sviluppati dell'Europa. Ecco, noi dovremmo ridurre il nostro sistema normativo al rango della quantità legislativa che c'è in Gran Bretagna, che c'è in Francia, che c'è in Germania. Allora, io devo fermarla su questa conclusione, sottolineando a chi è in ascolto che mi devo frenare nel dichiarare il mio entusiasmo per Carlo Nordio, perché non gli farei un favore. Cioè, io credo che, ma è la mia opinione personalissima, pubblici ministeri di questo tipo farebbero fare un balzo in avanti. Ma però è la mia opinione, non sto mancando di rispetto a tutti gli altri, penso che ci sia una visione sostanziale dei fenomeni criminali quando diventano così diffusi al punto tale da diventare un fenomeno di natura culturale del nostro paese, e dietro c'è l'eccesso di legislazione, e l'eccesso di legislazione significa che a quel punto inevitabilmente chi ha le chiavi per agire nelle pieghe e aprire le porte delle pieghe dell'eccesso di legislazione, cioè il dirigente pubblico, e il privato che a quel punto scavalca in maniera anticoncorrenziale le altre imprese di settore, quelli diventano i veri padroni della faccenda. E Incalza era il vero ministro d'anni, lo sapevamo tutti benissimo, ed è quello l'errore che paga, secondo me, Lupi, perché Incalza era il capo depositario delle chiavi per aprire ciò che altrimenti resta chiuso. E questo però è figlio di una maniera di fare le leggi, non è figlio del fatto che ci sia qualche teppistello corruttore e qualche connivente dirigente pubblico. È una maniera di vedere la legislazione, cioè l'espressione dello Stato che con la superfettazione di leggi non fa altro che dire: io sono formaggio, topi dentro di me, topi a me. Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Eccoci tornati alle 11:39 minuti, oramai qualche pausa tra la pubblicità e le comunicazioni obbligatorie questa trasmissione. Stiamo parlando di opere pubbliche, abbiamo sentito Carlo Nordio, magistrato a Venezia, che dice: guardate, l'aggravamento penale non risolve il problema, però Mario, sì, attenzione anche noi a non correre un rischio. Sì, no, esatto, io sono d'accordissimo sullo sfrondamento normativo, diciamo, riduciamo la normazione quanto più possibile, tuttavia poiché è velleitario pensare che la normazione sparisca, ecco che occorre cambiare i meccanismi organizzativi, nella fattispecie ad esempio reintrodurre controlli esterni sull'attività, diciamo, delle unità preposte a questo tipo di progettazione, perché a me ha colpito molto il fatto che l'ormai ex ministro Lupi abbia detto: ma Ercole Incalza è un uomo che il mondo ci invidia, no? Ha usato un concetto di questo tipo. Sì, magari ce lo invidiano pure, ma andiamo a vedere i risultati pratici di queste grandi opere: costo, efficienza, valutazione di impatto, efficacia. Non c'è nulla di tutto ciò. Allora che cosa ci invidia il mondo? Ma no, io non vorrei personalizzare, no? Non faccio il nome specifico della persona, ma di una persona che è rimasta incistata all'interno di questo ministero, è diventato un ministro ombra. E che cosa esattamente ci invidia il mondo? Il nostro costo per chilometro della TAV? Perché noi abbiamo l'orografia che ci frega, signora mia, che questa è l'antica tradizione di dire questo? Perché abbiamo bisogno delle opere di mitigazione ambientale, altra balla che serve per inserire dentro di tutto di più? Quindi, attenzione, perché comunque l'Autorità Nazionale Anticorruzione è scarsa di organico, e io personalmente non gradisco di avere un magistrato con la spada fiammeggiante in ogni cantiere. Allora, punto, cioè attenzione, non cercate di spacciarci per dei darwinisti che dicono lasciamo fare alle imprese. No, la questione è che ci vuole una riflessione di fondo su il regime di eccezione, lo strumento ad hoc che si chiama legge obiettivo, dopo 15 anni di bilancio tragico, i regimi di deroghe attraverso i che convivono con regimi ordinari inapplicabili, i controlli. Allora, su questo adesso abbiamo due ospiti con i quali approfondire fino alla fine esattamente questo punto, sul che fare dopo Lupi. Non accontentarsi di mettere un ministro diverso, bisogna smontare e montare con principi tutto quel corpaccione di norme, la lista di opere, evitare cose come la Orte Mestre con le intercettazioni. Avete visto la Orte Mestre che sopravvive alle obiezioni, ma come sopravvive? Attraverso quali pressioni? Con politici e dirigenti pubblici come Incalza che li orchestrano in Parlamento. E abbiamo due ospiti che in questi giorni hanno avanzato proposte concrete. È con noi Giorgio Santilli del Sole 24 Ore, grazie di essere con noi. Buongiorno, Giorgio. Buongiorno. E Francesco Ramella, che ha pubblicato, come sempre fa su questa cosa delle opere pubbliche, sul sito dell'Istituto Bruno Leoni, un intervento che ha a che vedere proprio con i costi impropri, diciamo così, le tangenti che non si vedono delle grandi opere e della legge obiettivo. Buongiorno e grazie Francesco. Buongiorno a voi. Allora, partiamo dal decalogo di Giorgio Santilli. Io l'ho ritweetato dicendo vorrei che fosse affisso in Parlamento, perché lì in sintesi, in 10 punti, ognuno dei quali sintetizzati, non so come abbia fatto, in una riga, però c'è moltissimo di quello che bisognerebbe fare nella svolta legislativa. Giorgio, ne vogliamo indicare almeno alcuni dei più importanti? Come no? Diciamo che l'impianto complessivo su cui ragionavo partiva dall'idea che la pubblica amministrazione, lo dicevate anche voi prima, debba fare forse meno cose e farle bene. Da qui quindi un'ipotesi che si cogliesse l'occasione prossima, attuale, del recepimento delle nuove direttive in materia di appalti, direttive europee in materia di appalti e di concessioni, per ridisegnare un po' il sistema. E a mio modo di vedere il primo punto per ridisegnare il sistema, questo è ho sentito anche prima le vostre osservazioni critiche, però mi sembra un punto da cui non si può prescindere, una forte delegificazione e semplificazione normativa. Noi siamo largamente più ridondanti di quanto facciano le altre legislazioni europee. Ci abbiamo 600 articoli nel nostro codice appalti fra norme di legge e norme regolamentari, e tutto un bagaglio di interpretazioni che è assai controverso e contorto, tanto più dopo che il titolo quinto all'inizio degli anni 2000 ha cambiato un po' i rapporti tra le regioni e adesso ricambiano di nuovo e si riaccentra. Però tu dici il ruolo dell'autorità anticorruzione di Cantone in realtà va esteso e diffuso. Esatto, perché nel momento in cui delegifichi e quindi dai meno certezze o presunte certezze con la norma, hai bisogno di un soggetto un po' all'anglosassone. A me piacciono i modelli in cui la regolazione ha un forte potere, diciamo, all'interno dell'attività economica, dai appunto a un soggetto che è in grado di regolare, quindi interpretare laddove serva in termini generali, ma anche caso per caso, le norme, le poche norme o comunque insomma lo scheletro di norme che resta, fare un'attività di vigilanza che certamente, come dicevate, non può essere la spada di Damocle su ogni cantiere. Io non la immagino in termini per il solo fatto che lì c'è un magistrato che poi su ogni opera si debba, come dire, applicare una vigilanza esagerata, però certamente il ruolo di assistenza, il ruolo di assistenza alle pubbliche amministrazioni caso per caso, anche secondo me è fondamentale, bandi tipo, attività interpretativa delle norme, la possibilità che le stesse stazioni appaltanti si rivolgano all'autorità dicendo ma come devo interpretare, che devo fare? Quindi io credo che all'inizio forse avremmo un lavorone da fare, un gran lavoro, perché chiaramente è un lavoro di interpretazione, ma alla lunga abituiamo le stazioni appaltanti a essere più responsabili e a chiamare in causa la norma soltanto nel momento in cui serve. C'è il settimo punto di Giorgio che voglio sottolineare e sviluppare, perché è vero che non voglio nessun magistrato con la spada fiabeggiante, ma vorrei un sensore wireless per controllare i processi di gestione degli appalti. Tu citi giustamente il modello di spazio di all'innovazione digitale e alla tecnologia per controllare il project management, e questa è la strada corretta, cioè coniugare governance e controllo a grande flessibilità e grande autonomia sul territorio. Usiamo la tecnologia per gestire queste cose, non pensiamo di mettere i sorveglianti ad ogni angolo del cantiere, anche perché il modello industriale che ci sta dietro è un modello che toglie allo Stato il compito di fare lavori pubblici, ma gli affida il compito di stabilire standard operativi innovativi, lasciando poi al mercato la scelta specifica delle tecnologie e della soluzione tecnica. Allora, ci sono poi tre punti che hanno a che vedere proprio su come, sul cuore di come si fanno le grandi opere. Ci sono tre punti, perché il primo riguarda un bilancio della figura del general contractor che entra nella legislazione italiana con la TAV ai tempi di Necci, quando il potere di incalza si afferma, perché di fatto di là viene, e che va modificato. Va modificato, Giorgio Santilli dice, la direzione dei lavori non deve aspettare il general contractor, diamola direttamente alla stazione appaltante. Però, seconda questione che chiedo a Giorgio Santilli, c'è un tema su chi fa i controlli, perché in realtà noi abbiamo sperimentato che il general contractor era connivente con la stazione appaltante nel individuare chi faceva i controlli, e anche questa cosa va cambiata, vediamo come. Terza blocco importante, mettere delle varianti fisse delle possibilità di del prezzo in corso dell'opera, più basse, per mettere un tappo, per così dire, rispetto al 40% che abbiamo ricordato è avvenuto nelle opere cantierate fino a questo momento, solo l'8% della legge obiettivo, e poi infine un standard diverso degli iter di progettazione tra progettazione esecutiva e progettazione definitiva. So che sono cose tecniche, Giorgio, però la questione tra stazioni appaltanti e general contractor, 1, 2, controlli, 3, la progettazione. Ho fatto un programma questa settimana con molti studi professionali che dicevano, ma quando oramai ci sono le gare per la progettazione affidate con l'80% al ribasso, tutti noi del settore sappiamo che cosa c'è dietro, che le prende a 4 soldi chi non deve fare soldi con quello, perché li riprende in un altro modo. Fa sussidio incrociato. Esatto. Ovviamente. Allora, Giorgio. Sì, c'è qualcosa secondo me che è anche peggio e che si è affermata negli ultimi un po' meno di dieci anni, diciamo. Cioè, si è fatto largo a un rapporto fra progettista e esecutore dei lavori, quindi impresa che realizza i lavori, che secondo me è malato. Questo in due casi. Uno l'hai ricordato tu, nella legge obiettivo direzione dei lavori, che in sostanza la direzione dei lavori che cosa fa? La direzione dei lavori dovrebbe essere il custode del progetto, esatto, quello che assicura, anche in contraddittorio rispetto all'impresa, che il progetto venga realizzato al meglio, in tempi certi, con i costi previsti. Poi certamente se ci sono dei grossi problemi per cui quel progetto va modificato perché ci sono difficoltà oggettive, si modifichi pure, ma è cosa ben diversa dall'affidare questo ruolo all'impresa che ha tutto l'interesse ad aumentare i costi. Questo è un meccanismo perverso. Stesso discorso, qui parliamo delle grandi opere della legge obiettivo, però se noi andiamo anche alla normativa ordinaria, ha preso piede una forma di contratto che io ho sempre combattuto, che è il contratto di appalto integrato, cioè, bravo, progettazione e realizzazione allo stesso soggetto. All'impresa. E lì il meccanismo è malato lo stesso. Allora, che cosa invece bisognerebbe fare? Bisognerebbe rafforzare il progettista, certamente non con quei ribassi dell'80% che tu citavi. Cioè, bisogna ridare una dignità alla progettazione, e il direttore dei lavori deve essere qualcuno che, o lo stesso progettista, spesso è lo stesso progettista, nelle vecchie buone maniere di esecuzione dei lavori pubblici era lo stesso progettista che difendeva il suo progetto. E lì creare dei rapporti di dialettica anche con l'impresa, in cui però il rapporto di forza sia ristabilito, diciamo, è più equilibrato di quello che è oggi. Oggi l'impresa, grazie al controllo sul progetto, poi in realtà riesce anche a far lievitare i costi. E da qui la seconda grande malattia del sistema italiano, che Cantone, per esempio, che è lì da 6-7 mesi, ha già individuato perfettamente, sono le varianti in corso d'opera. Perché la variante in corso d'opera in Italia, sì, c'ha un limite del 20%, e quindi è più alto degli standard europei, ma è diventato un po' il sistema. Il sistema, ma non c'è dubbio, è diventato il sistema. Allora il problema è se la politica adesso avrà la forza di fare questo. Io temo semplicemente una sostituzione al ministero, magari uno spacchettamento tra trasporti e infrastrutture. Hai scritto anche di questo, Giorgio Santilli, io sono d'accordo, però il problema qui è cambiare le norme, poi lo spacchettamento viene dopo. Bisogna intervenire in corpo e vini su quello che non è vero, che non sappiamo che cosa bisogna fare. C'è gente che ha attraversato con le lenti tutto quello che è avvenuto, le degenerazioni avvenute, le collusioni, gli sprechi di miliardi, miliardi e bisogna farlo. Non è vero che non si sa cosa fare, ci abbiamo un'interruzione strade e torniamo a quel punto, al grande punto. La rivediamo la lista delle grandi opere? Che cosa sappiamo davvero delle analisi costi-benefici? Non è quella un'altra mega tangente aggiuntiva oltre a quello su cui ci sono le indagini aperte? Della belva. Allora, siamo tornati qui, gli ultimi minuti di Conti della Belva, i compari. Carlo Alberto. Mario. Oscar, con Francesco Ramella. Allora, Francesco, ma la grande tangente della grande listona delle opere di cui non ci stiamo occupando, travolti ovviamente dalla cronaca, dal fatto che Lupi, e adesso vediamo se anche gli altri indagati del PD che invece restano vanno a casa oppure no, vediamo se vale solo per Lupi non indagato e non per De Luca condannato in primo grado, vediamo come mai Renzi, quando era leader di una parte del PD ma non era Presidente del Consiglio, diceva che Letta sbagliava a non mandar via tutti, però lui non lo fa con i suoi sottosegretari. Lasciamo perdere il doppiopesismo della politica. Ramella, si può davvero, ci credi al fatto di rimettere mano alla lista delle grandi opere con analisi costi-benefici che siano diverse da quelle fin qui viste, che parlano di sprechi e di obiettivi non raggiunti nell'ordine di grandezza dell'82%? Beh, ci spero e me lo auguro per gli italiani, perché a me pare che ci siamo concentrati molto su un aspetto, quello della corruzione, dicendo cose molto condivisibili, ma secondo me questo è un problema rilevante, ma non è quello centrale, rischia di farci sfuggire quello che è il tema principale. Come andranno i processi non lo so, ricordo che molti processi si sono conclusi con assoluzione in presenza, quindi poniamo che tutto si chiuda per il meglio dal punto di vista giudiziario, avremmo così risolto il problema, tutto va bene, e io direi assolutamente di no. Quello che sappiamo ormai è accertato, che c'è un problema forse di onestà ma sicuramente di competenza. Ce ne sono di due tipi, io li vedo. Il primo è quello dell'incapacità di chi ha avuto responsabilità negli scorsi 10-15 anni di controllare i costi. E questo in parte si è già detto, si è parlato di un 40%, nel caso della TAV siamo quasi a un 100% di raddoppio dei costi. Raddoppio dei costi. Dai 15 a circa 30 forse non ci siamo ancora. E la mia domanda è, se un manager di una impresa privata avesse fatto sforare il proprio budget del 100%, sarebbe ancora al suo posto? No. Probabilmente no. Magari non ci sarebbe neanche più l'azienda. Esatto. Ma lo Stato, sai che lo Stato non ha di questi problemi, sopravvive a... Purtroppo non ha di questi problemi. Esatto. Secondo punto, e questo in qualche modo è noto, c'è un altro punto che però credo sia ancora meno evidente, quello del, quando facciamo di nuovo il paragone con un'impresa, abbiamo un budget, abbiamo dei costi per fare un nuovo stabilimento e poi abbiamo una previsione di vendite. Di nuovo, se un manager prevede di vendere 3-4 volte quello che effettivamente riuscirà a piazzare sul mercato, di nuovo non credo sia un bravo manager. E invece, come si vede nelle opere Brebemi eccetera eccetera, insomma, voglio dire, qui l'analisi costi benefici, che cosa poi davvero, qual è l'utilizzo e così via, qui non ci siamo proprio. Questa è una questione sulla quale bisogna pensare come fare a rimettere mano a tutto. Cari ascoltatori dei Conti della Belva, non abbiamo mandato neanche una telefonata, dobbiamo batterci il petto, caro Alberto e caro Mario, e intanto salutare e darvi appuntamento a sabato prossimo contro lo Stato Ladro!